32. La storia l'aveva raccontata Gwenda, una mignotta di Soho Square che si piazzava sempre da occhio solo a farsi il cicco prima di attaccare. Era stato la sera prima, proprio sotto da lei. Stava in finestra per attizzare la mossa, tutti i malcichi e zavagli che da quando c'erano sugli indiani la polderia col dengo girava al largo. Il gagno era stringato e toccava darla ai peggio lerci di Soho. A un botto, dall'altro lato della piazza, spunta questa portanta, con quelli dentro che li senti cantare e quelli che sgroppano stirati fini, coi mantelli e guanti bianchi, tirare avanti tranquilli, come se stanno a Vauxhall per l'ora del tè. Lei s'era sborsata le minne, le aveva apparecchiate sul davanzo e s'era messa a sgolare un'aria porca di quelle che le senti e hai già voglia di ficcare. Stava appena all'inizio, che alla ciangotta sua e di quegli altri se ne mescola una terza. Uno scriccio da bestie scannate e subito una quadriglia vestita da Adamo spurga nella piazza con l'arco, le frecce e tutte le menate dell'anno indiano. Quelli dentro la portanta saltano giù, quelli che sgroppano mollano lì e vanno a imbucarsi in una rughetta buia con gli indiani attaccati alle chiappe. A quel punto dalla finestra di Gwenda non si sgama più nicchia. Solo due tizi che s'affacciano dalle topaie sul vico e uno versa broda da una tinozza. L'altro cala giù una quale che non si capisce, ma subito senti gli amen che pare di sotto li stanno strippando. Dopo 10 minuti buoni di sgolo e pavane, il vico li spurga fuori, in fila come soldati, davanti i due scariolini, poi 4 snudati, che devono essere gli indiani, ma adesso c'hanno la gnucca dentro un sacco e una rete addosso che li tiene insieme, e dietro altri 5 o 6 zavagli, che quando sono passati sotto da Gwenda, uno le ha pure mandato un tiro e lei l'ha riconosciuto. Pare che è uno fisso, un infame che incassa il trucciolo con una genga da recluta delle più sguanate. Così, l'anno indiano era durato solo 6 mesi, pensò Occhio Solo Fred. L'imperatore e i suoi soma finivano in marina, magari spediti nelle colonie, a schioppettare gli indiani veri. I selvaggi di Londra erano troppa feccia per farsi nazione, ma abbastanza leccati da infilare una divisa. L'incontrario di quelli di là dall'oceano. Abbastanza feccia per servire all'armata, ma troppo leccati per... boh, insomma, l'incontrario. Occhio Solo pensò che la taverna era di nuovo sua e questa volta, se non voleva regalarla al primo stronzo, doveva studiarsela bene. Certo, il primo stronzo che andava lì dentro con 4 soma armati e sguanosi se la pigliava di sinistro, la taverna. Tutto stava nel non farceli venire. Se c'era qualcosa che gli avevano imparato quelle teste sbroccate, era la frase che l'imperatore ripeteva più spesso. La paura è l'anima del commercio. Tanto per cominciare, un'insegna. Taverna di Occhio Solo, magari, per dirla chiara da subito. No, ma che? Occhio Solo Fred ormai faceva paura giusto ai fringuelli. Piuttosto la taverna dell'imperatore, come per ricordarti che quello, prima o poi, poteva pure tornare. I preti andavano avanti da 10 anni a tenere giù i fedeli con una stronzata del genere, perché non doveva riuscirci lui, per quegli anni migragnosi che gli avanzavano da fare. Se la paura era l'anima del commercio, il commercio aveva molto da imparare dalla Chiesa di Cristo. La taverna dei Mohawk. Bello, sì, o la taverna dello scalpo, ecco. Che quello sciroccato dell'imperatore gliel'aveva fatto tenere lo scalpo di Dread Jack. Non si sa mai. E adesso, infatti, tornava buono. Lo poteva inchiodare al muro dietro il banco, sotto un paio di accette incrociate dove teneva il ritratto a carbone che gli avevano fatto in galera. Magari con la taverna indiana poteva smerciare ancora quella broda schifa, gin, melassa ed estratto di menta che l'imperatore glutava di continuo. E i suoi soma erano costretti perché diceva che quello era il cicco preferito di suo nonno e di quegli altri indiani che erano venuti dalla regina Anna prima che i crucchi si pigliavano il trono. Anche la broda tornava buona, per ricordare che lì, alla vecchia taverna Occhio Solo, ora dello scalpo, la 7ª nazione continuava a trovarsi, fintando che l'imperatore non tornava dall'America, con pelli di castoro e figa per tutti. 20 galloni di sciroppo alla menta, se riusciva a darli via, prima che mettevano i vermi, se lo faceva tatuare sul culo. La paura è l'anima del commercio.